Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Nuovamente in studio da Radio Città Fujiko si riprende il Breakfast Club dopo il GR di Radio Popolare per un Last Minute che ci porterà in mostra, in quanto l'inaugurazione è oggi, ufficialmente aperta da domani fino al 26 maggio. Di che si tratta? Intanto che è un'occasione della 61esima edizione di Bologna Children's Book Fair, ne abbiamo parlato ieri dai magazine, e il Museo Civico Archeologico del settore Musei Civici di Bologna, che è ben contento, e ci credo, di accogliere questo progetto espositivo internazionale. Ha un titolo molto articolato: When Two Seas Meet in Bologna, A Sea of Creativity, Taiwan, A Sea of Story. Davide Cali, è visibile dal 10 aprile al 26 maggio, l'ingresso è gratuito. L'inaugurazione sarà oggi alle ore 19, ufficialmente da domani aperta, evento di apertura della seconda edizione off della rassegna Bologna Children's Book Fair, Off Fair 2024. Il programma è curato da Accademia Drosselmeier, ha preso le mosse nel 2023 per il 20° anno di attività. E intanto la mostra, inoltre, è inclusa nel programma di Boom, Crescere nei libri, il Festival dei libri e dell'illustrazione per l'infanzia nella nostra città, durante e dopo la rassegna esaustiva e totale del Bologna Children's Book Fair. Come spiegano i curatori Grazia Gotti e Roxow, che sentiremo tra poco nell'intervista curata da Lorenzo Pauri, la presentazione per media e stampa si è tenuta venerdì appena trascorso. I contenuti, purtroppo, che hanno portato a motivi divisivi come la pandemia, le guerre, l'odio, che hanno frammentato mondo e costretto tante persone a una condizione isolata di solitudine. Allora, iniziamo la nostra conversazione per diffondere questa nuova esposizione imminente già da questa sera al Museo Civico Archeologico di Bologna con una delle curatrici, che è Grazia Gotti. Sentiamo appunto le sue parole per rapporto con la sede espositiva, Museo Civico Archeologico, e anche i contenuti di questa particolare interazione tra Taiwan e Italia e resto del mondo. Questo evento, diciamo, questa mostra è ospitata dal Museo Civico Archeologico e dalla sua gentilissima direttrice Paola Giovetti, con cui abbiamo collaborato in passato. Io, quando dico abbiamo, mi riferisco a un gruppo che in città erano famose per essere denominate le Giannine, perché eravamo un gruppo di ragazze. Abbiamo fondato 20 anni fa l'Accademia Drosselmeier, che è una scuola di formazione per quelli che vogliono fare il nostro mestiere, vale a dire aprire delle librerie oppure lavorare nell'editoria per ragazzi. In modo particolare io mi occupo di questa Accademia Drosselmeier e da 20 anni sono consulente della Bologna Children's Book Fair, che è la fiera internazionale per ragazzi che si tiene ogni anno a primavera. La prossima edizione comincia lunedì l'8 aprile fino all'11, è l'appuntamento più importante al mondo, quindi l'internazionalità di questa fiera, che però è una fiera per professionali, vale a dire chiusa al pubblico, quindi la città la conosce poco, perché in realtà la città non può entrare. Tanto che 20 anni fa noi facevamo una proposta alla fiera di portare fuori i contenuti, quindi se venivano degli autori li portavamo nelle biblioteche, se c'erano delle mostre di illustrazioni da fare in accordo con gli istituti stranieri che allora c'erano ancora in città. Era una città, mi viene quasi da dire, più internazionale di quanto oggi questo turismo un po' straccione da tigelle dimostri. Io sento molto la mancanza di operazioni culturali di avanguardia come Bologna era stata capace di avere un tempo. E quindi, come Accademia Drosselmeier, e collaborando così tanto con la fiera, che per me vuol dire programmarla per tutto l'anno, trovare dei contenuti, internazionalizzarla, andare a New York, Shanghai, andare dalle amiche degli Emirati Arabi, anche perché è una fiera che pochi conoscono, perché ci sono pochi editori italiani, cioè ci sono gli editori italiani per bambini, ma ci sono gli editori americani, gli editori cinesi, editori coreani, spagnoli, norvegesi, insomma è l'hub più importante al mondo. Cioè, dopo la fiera di Francoforte, che tratta però principalmente i diritti per i libri per gli adulti, questa è la prima al mondo che tratta i diritti di libri per bambini. Quindi io mi sono messa in testa che quei contenuti che là io conosco e che sperimento ogni giorno debbano essere conosciuti. Se 20 anni fa pensavo alla città, oggi penso almeno al mio paese. Quindi ho cominciato l'anno scorso, in occasione del nostro 40ennale, che era il 60esimo della fiera, di dire: inauguriamo un nuovo programma che si chiama Off-Fair 24, che va da fino alla fiera dell'anno prossimo, di cui sappiamo già la data. Lavoriamo in una dimensione dinamica, aperta, inclusiva, mi viene da dire geopolitica, culturale, gigantesca, e abbiamo contatti con i migliori divulgatori, produttori di storie, di immagini, artisti, scrittori, letterati per i giovani adulti. Quindi per me adesso il mio compito è tentare di spremere tutto quel succo che ce l'ha sul nostro territorio nazionale, insegnando ai più giovani, perché io credo che si debba lasciare testimonianza di qualcosa di ancora vitale, non si debbano tenere dei posti di posizione, si debba trasmettere a un 22enne la conoscenza, che questa, la ricchezza che questa città ha, darvela in mano e dire a voi: andate avanti. Diversi pseudonimi che danno da pensare un altrove, più totale se vogliamo, anche se ufficialmente è nato in Svizzera, Liestal, quindi è veramente un percorso molto esteso, però italiano, è cresciuto in Italia, dove ha intrapreso una carriera da fumettista e scrittore, ha collaborato con diverse fanzine, ha lavorato stabilmente per il mensile italiano Linus come autore e disegnatore di fumetti dal 94 al 2008, ha iniziato a scrivere libri per ragazzi nel 98 e i suoi primi titoli sono stati pubblicati in Italia dal 2004. Oggi la maggior parte dei suoi lavori vengono pubblicati in Francia e negli Stati Uniti. È il protagonista, per quanto riguarda questo motivo di incontro in esposizione, al Museo Civico Archeologico, sarà in presentazione questa sera ufficialmente, poi apertura da domani, questa sera alle ore 19. Il mondo è destinato ad essere libero, aperto, e come esseri umani siamo destinati a essere connessi. Le immagini sono il primo mezzo che l'umanità ha usato per superare confini e creare connessioni. Ed è un'immagine veramente che dà, pur mantenendo una personalità forte di diverse sfaccettature, assolutamente di comunicazione, intersezione con Bologna Children's Book Fair e questa parte Off Fair 2024, veramente per portare fuori e poi riunirsi a Bologna in questa esposizione assolutamente interessante. Nella seconda parte conclusiva di comunicazione e di dialogo insieme a Grazia Gotti troveremo, ho letto il titolo, no? Dove il mare è costantemente presente, quindi inizieremo proprio da questo aspetto, perché è stato scelto questo elemento magico, unico e speciale, bellissimo. Perché l'idea di usare questa metafora, che io ho subito accolto, è del curatore di questo evento, che è un signore taiwanese, Rex Au, perché quando ci siamo conosciuti nel 2018 è nata una straordinaria condivisione di progetti culturali lontani, tanto che lui era sempre stato molto interessato alla cultura italiana. È un signore che oggi ha 68 anni, ma è stato il primo da editore a portare Calvino a Taiwan, nei fumetti a portare Milo Manara, Mattotti. Poi quando ha conosciuto me io ho aggiunto La grammatica della fantasia di Gianni Rodari, Munari, insomma abbiamo cominciato e abbiamo fatto nel settecentesimo della morte di Dante un Dante illustrato meraviglioso, tanto che nel 2021 il presidente Mattarella lo ha insignito della più alta carica della Stella per meriti culturali per aver portato la cultura, ed è l'espressione più viva e vera, cioè un paese che non è riconosciuto, a cui la Cina vuol fare la guerra, che però gli americani dicono no, insomma, e che sono sicuramente più democratici dei cinesi, sia venuto per primo una fiera, abbia conosciuto me, cioè quella è l'isola che è il mare ha le correnti, cosa trasportano le correnti? Le nostre idee, le nostre voglie di inclusione. E io invece stavo facendo una mostra, stavo pensando a una mostra dedicata a uno scrittore italiano, Davide Calì, che ha una particolarità, è uno straordinario narratore, cioè lui scrive storie per gli albi illustrati, ha 50 anni, ne ha scritto 200, cioè pubblicato in tutto il mondo, pubblica con gli americani, con i francesi, con... Allora la metafora del mare per lui era un mare di creatività, cioè la sua isola, tanto che ci sono gli illustratori, i fumettisti, ma soprattutto vengono 6 artisti digitali che hanno già elaborato artisticamente l'intelligenza artificiale. Quindi qui per una settimana bambini, adulti possono venire e lavorare con 6 artisti laggiù in fondo e capire che cosa si fa con l'intelligenza artificiale e il visivo. Quindi per me la metafora del mare andava bene perché era un mare di storie. Davide Calì, un oceano. Nella nostra lingua italiana noi usiamo la similitudine un mare di storie, o perché non è tanto una metafora, però insomma abbiamo anche detto e l'abbiamo detto lì che questa metafora del mare ci trovava vicino, ma soprattutto collegare l'arte alla vita, fondere la passione con i sogni. Questo è il nostro principio lavorativo, professionale, attivistico, perché siamo anche degli attivisti politici, io ritengo. Cioè lui è stato consigliere del ministro della cultura, ma quando hanno preso la decisione sotto banco con i cinesi ha scritto una lettera pubblica e tutti i giovani sono andati con lui, hanno fatto il movimento dei sunflower, dei girasoli. Quindi siamo, diciamo così, proprio delle persone che agiscono nell'ambito culturale, convinti che l'ambito culturale non sia un'autocelebrazione delle proprie idee, ma sia una parte dinamica della trasformazione in atto che soprattutto i giovani dovrebbero cogliere. Come è strutturato questa mostra per riuscire a riportare tutte queste... Certo, ci sono 2 ingressi. Sì. Allora, i 2 mari che si incontrano a Bologna sono quello dell'isola di Taiwan e quello di Davide Calì, che è l'autore di cui ti dicevo. Tu ti incontrerai in un luogo dove ci sono dei libri, sia quelli di Calì che quelli taiwanesi, per bambini. Poi c'è una porta, ci puoi già entrare e lì troverai gli artisti digitali che ti dicevo. Poi fino al 26 maggio ci saranno delle iniziative rivolte sia ai bambini che agli adulti, visite guidate, workshop, con un finissage il 25 maggio molto interessante, che invece farà il nostro direttore artistico, che è Massimo Pastore, che è quello che ha fatto tutta la parte grafica e illustrativa. La ringrazio tantissimo per l'intervista e buona giornata. Anche a te. Bene, bene, bravo Lorenzo, ho curato questo last minute in intersezione con la rubrica in mostra, sarà fino al 26 maggio, ma ci sono appuntamenti chiaramente poi che vanno oltre per quanto riguarda l'iniziativa al Museo Archeologico per Offair 2024. Ringraziamo anche la co-curatrice dell'iniziativa Grazia Gotti. A breve avremo la pubblicità, rientriamo già in studio, abbiamo il graditissimo e atteso ritorno di Pietro Rossi e con Paolo Onofri per completare il roster del Mood Groove andremo tra parquet e filosofia con l'imprevedibile martedì di Radio Città Fugico. A tra poco!